Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Buongiorno direttore. Le notizie che sentiamo in questi giorni sul terremoto sono ogni giorno più tragiche. Ma la domanda che ci facciamo in molti è: perché lo stillicidio continuo del numero delle vittime? In ogni giornale, TG, radiogiornale, eccetera, tutto ciò che riguarda il terremoto si apre con la fatidica frase: le vittime sono ora. Giovedì mattina alle 7 al TG di Sky, la conduttrice riprendeva l'inviata dopo che questa aveva detto che le vittime accertate erano 275, correggendola. No, guarda che ti sbagli. C'è un aggiornamento di pochi istanti fa. Le vittime sono 278. Incredibile. Ci domandiamo se questo sia giornalismo, informazione, o invece solo cultura della negatività, morboso desiderio dei media di enfatizzare sempre e solo le notizie negative. Mercoledì sera, con gli amici, si discuteva di questo tema. E anche lì uno diceva 230, l'altro 240. Facevano a gara a chi fosse più aggiornato. A un certo momento ho chiesto se qualcuno conosceva il numero delle persone che erano state estratte ancora vive dalle macerie. Lo sa, direttore, che nessuno ne aveva la ben più pallida idea. Si rende conto, direttore, in quale direzione ci porta questo tipo di informazione? I morti si piangono e sono un grande dolore per chi li ha persi, ma concentrarsi su chi è in vita non sarebbe meglio. Enfatizzare di più lo straordinario lavoro che hanno fatto i soccorritori, gratificarli enfatizzando maggiormente i numeri delle persone che sono riusciti a salvare, non sarebbe meglio? Già, ma questo non fa notizia. Giampaolo, Piacenza. Provo un dolore enorme per tutti i miei concittadini morti dopo il tragico terremoto. Sono sgomento. Ogni aggiornamento del numero delle vittime mi porta alle soglie del pianto e mi commuovo per i tanti eroi che in questi giorni portano aiuto e sollievo alla popolazione. Parlo dei vigili del fuoco, dei volontari, di tutti coloro impegnati attivamente in questa prima fase di intervento. Poi subentra un senso di vergogna, però, per i corresponsabili di questa tragedia, perché non c'è dubbio che ci siano delle responsabilità umane. Un sistema di responsabilità, i costruttori, gli enti adibiti al controllo. Saremo in grado di risollevarci come popolo solo quando sapremo allontanare dai posti di responsabilità queste persone. È necessario tornare alla legalità. Ogni sano governo del paese deve avere questo obiettivo principale, perché l'illegalità, prima o poi, si paga in vittime umane. Marco. Credo che l'ospedale dell'Aquila sia stato progettato secondo le normative sismiche degli anni 70-80, che richiedevano solamente che, in caso di sisma, l'edificio stesse in piedi. La normativa più recente chiede invece che edifici sensibili, come ospedali, centrali energetiche, prefettura, strade di grande trasporto, non debbano solamente non crollare, ma continuare anche a garantire il servizio svolto. Se questo è effettivamente il caso, il progetto era giusto. C'è da chiedersi però perché non sia stato messo in sicurezza dopo. Le nuove fermate della metropolitana milanese non erano state progettate secondo la normativa sismica, ma subentrate le nuove norme, praticamente in coincidenza con l'appalto dei lavori di realizzazione, il progetto è stato aggiornato per recepirle. Michele. Se per le vittime del terremoto in Abruzzo ci sarà un funerale di Stato, forse vorrà dire che lo Stato avrà riconosciuto di essere tra le cause che hanno provocato vittime. Infatti, di chi è la colpa se ancora oggi in una città ad elevato rischio sismico come l'Aquila gli edifici non sono a norma? Perché in Giappone sismi di questo tipo fanno solo qualche ferito leggero e nessun morto? Dobbiamo forse farci governare dai giapponesi? Antonio, Perugia. Gentile redazione, lasciatemi sfogare per essermi trovato ad Avezzano la notte del terremoto. Ad Avezzano la memoria del terremoto del primo Novecento è ancora forte e tutta la cittadina fu ricostruita con criteri antisismici dell'epoca. Dovrebbe quindi essere uno dei posti più preparati a questi fenomeni, vista anche la particolare sensibilità degli abitanti, frutto questa di terribili racconti tante volte ascoltati dagli anziani. Eppure, la notte di domenica, ci siamo precipitati nelle strade, impauriti e infreddoliti, senza una meta, un punto di riferimento, un ente o un'organizzazione che evitassero paure e tensioni superflue, anche considerando il clima, che qui è sempre freddo. Non dovevano esserci esercitazioni preventive, punti di ritrovo, coordinamento delle attività. Non abbiamo visto niente di tutto questo, e ascoltare le radio, anche locali, che continuavano allegre programmazioni musicali, dava un senso di collera, perché si aveva già sentore della gravità della situazione. A cosa serve muovere la macchina dei soccorsi solo dopo una catastrofe, senza un minimo di preparazione sul posto? Come se una nave non avesse scialuppe di salvataggio e si affidasse esclusivamente ai soccorsi che, si spera, possono arrivare presto su chiamata. Altra nota di italica approssimazione e confusione. Lunedì da Roma sono stati soppressi nel pomeriggio treni e pullman per Avezzano, senza alcuna indicazione su quando i servizi sarebbero ripresi. Allarmato per raggiungere di nuovo i parenti, mi sono fatto prestare una vettura e dopo una lunga coda per immettermi sull'autostrada A24, finalmente ho passato il casello. Ho viaggiato su un'autostrada deserta. Non c'erano convogli di aiuti né convogli in sosta nelle piazzole. Allora perché quella fila? Perché bloccare i bus di linea? Ho l'amara sensazione che in Italia continueremo a muoverci solo dopo le emergenze, con l'aggravante che l'emergenza si presta anche a fare spettacolo politico. Maurizio. Non ritengo per niente sbagliato trasferire i fondi destinati al ponte sullo stretto alla riqualificazione sismica degli edifici. Primo, perché se si potesse, con una riqualificazione sismica, salvare almeno una vita in più, questa sarebbe certamente un'operazione lodevole. Penso soprattutto alle scuole di tutta Italia e a quanti bambini potrebbero andare a scuola con più sicurezza, senza più ritrovarsi a vedere scene tipo quella di San Giuliano di Puglia. Secondo, perché ritengo che il ponte sullo stretto sia, in ordine di importanza, l'ultima opera pubblica di cui in questo momento si ha bisogno in Italia. Luca. Vorrei rispondere a questa domanda. Perché si dovrebbero dirottare i fondi allocati per il ponte alla ricostruzione della città dell'Aquila? La spiegazione più semplice che mi viene in mente è il paragone con il bilancio familiare, ma potrebbe essere uguale con il bilancio di un'azienda. Una famiglia proprietaria di un immobile nel quale vive decide di ristrutturare un bagno o addirittura di costruirne un altro, ristrutturando parte dell'immobile in cui vive per migliorare la propria quotidianità. A questo proposito, dopo alcuni preventivi, decide di investire nel progetto e mensilmente risparmia fondi da impiegare nel prossimo investimento. Ovviamente la famiglia continua a gestire le proprie spese correnti perché non può farne a meno. Succede all'improvviso una sventura imprevista, un intervento urgente per una malattia inattesa a uno dei componenti della famiglia. Il bilancio familiare attualmente non permette di procedere su entrambi i progetti e uno dei due deve essere necessariamente rinviato. Si tratta di decidere a cosa dare priorità: all'immagine, una casa più confortevole e moderna, o alla soluzione di un problema di salute. Perché uno Stato non può ragionare allo stesso modo? Ricostruire una città come l'Aquila non è forse come risanare una ferita? Enrico. Sono nato e vivo a Siracusa. Sono laureato in ingegneria civile, settore trasporti. E forse per questo la realizzazione del ponte mi sembra indispensabile per tutti i risvolti utili che avrebbe. Ai sostenitori dell'inutilità del ponte, che poi magari in Sicilia ci vengono in aereo, farei fare una fila di 10 ore sotto il sole di agosto dietro un camion che sbuffa, come mi è purtroppo capitato di fare più di una volta. È mai possibile che per fare 3 chilometri con il treno siano necessarie quasi 2 ore, mentre nel resto d'Italia si parla di alta velocità e per andare da Bologna a Milano ci si impiega lo stesso tempo che noi impieghiamo per fare 3 chilometri. Ma se pensiamo che il ponte dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria, cosa importa ai politici nazionali e purtroppo anche a quelli locali se noi rimaniamo a questo stato di arretratezza? Anzi, meglio, così possono tenerci sempre sulla corda e fare promesse in cambio di voti. Concludo facendo una considerazione. Fino a 40 anni fa non era tecnicamente possibile realizzare un ponte a campata unica di queste dimensioni. Poi l'avvento degli acciai armonici e, meglio ancora, dei materiali compositi hanno reso tale realizzazione tecnicamente possibile. Ma ho quasi 50 anni e mi chiedo se vivrò abbastanza per vederlo. In ogni caso, sono convinto di una cosa. Se il ponte dovesse collegare il Piemonte con la Francia o il Trentino con l'Austria, sarebbe già realizzato e in esercizio da anni. Alberto. Vorrei far presente che le informazioni proposte e divulgate dal dottor Giuliani hanno un fondamento più che scientifico e che la loro scarsa visibilità è semplicemente dovuta alle forti lobby di natura prettamente economica che intaccano anche l'ambito scientifico ai suoi vari livelli. Ciò che preme mettere in evidenza sono sostanzialmente due fattori di fondo. Il gas radon, in quanto tale, non è certamente evidenza di un fatto sismico imminente. Tale gas è presente in percentuali variabili ovunque come inquinante naturale. Esso però diventa significativamente indicatore di un evento sismico quando sia presente in quantità abnormi, per tempi sufficientemente prolungati e in zone ampiamente riconosciute come ad alta densità di rischio sismico. In un quadro complessivo nel quale al gas radon venga riconosciuta una tale funzione, è comunque sempre opportuno mantenere al più alto livello tutto quell'apparato che permetta lo sfollamento immediato a seguito di uno sciame sismico anche di bassa intensità, ma molto prolungato nel tempo. Come pure quando si verifichi uno sciame sismico ben definito nei tempi, nei luoghi e nelle energie, e quando queste superino un valore di sicurezza che è ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, ma ciononostante gode di scarsissima visibilità e diffusione tra la popolazione. Angelo. Io credo poco ai salvatori della patria, così come si vorrebbe che fosse Giuliani, e sono d'accordo sul fatto che, anche se fosse possibile sapere che un terremoto avverrà nell'arco di un mese, la notizia non sarebbe utile ai fini di un'evacuazione. Tuttavia ritengo che se le autorità lo sapessero per tempo, potrebbero predisporre in tempi rapidi le risorse necessarie per l'intervento post-terremoto. La notizia però dovrebbe essere esclusivamente per le autorità e non divulgata insensatamente alla popolazione. Giovanni, provincia di Caserta. Questo è il momento per dimostrare la veridicità della teoria del ricercatore Giuliani. Stando sul posto, potrebbe prevedere le eventuali future forti scosse di assestamento. Ettore. Una filiale Unicredit di Milano ha addebitato una commissione di 7 euro su un versamento di 40 euro a favore dei terremotati. L'ente ABI ha commentato la cosa dicendo che le banche non sono soggette ad alcun obbligo e che ogni singola banca potrà adottare il comportamento che meglio crede. A differenza dei camorristi, banche e banchieri parlano bene, vestono bene, ma chiedono il pizzo. Davide. Giovedì ho fatto un bonifico di solidarietà pro terremotati abruzzesi su un conto corrente bancario creato appositamente per questo scopo e con causale esplicita. Con grande sorpresa e fastidio, mi sono accorto di dover pagare anche una commissione alla mia banca, oltre a dei giorni di valuta che vanno a vantaggio della banca stessa. Anche se una parte della commissione copre il costo del servizio, ritengo questo comportamento particolarmente immorale, vista la motivazione del versamento. Gli enti preposti al convogliamento dei contributi pro terremotati e per altre calamità naturali, istituti di credito, poste, aziende telefoniche, dovrebbero impegnarsi a non lucrare sulla solidarietà della gente, garantendo zero giorni di valuta e zero costi di commissione in addebito al donatore, disponibilità immediata sul conto di destinazione, con applicazione degli interessi attivi previsti per la migliore clientela. Spero anche che questi conti correnti siano a costo zero e che su di essi non gravi l'imposta di bollo governativa. Se i sistemi informatici non sono pronti a gestire automaticamente tali condizioni, basta l'impegno ufficiale degli enti ad accreditare sul conto di destinazione gli eventuali costi di commissione incassati